Ciao agli amici di Radio Big Orde che ascoltano questa conversazione. Oggi vi racconto una storia vera di un pazzo ricoverato in manicomio, delle sue sofferenze e fortunatamente del suo recupero sociale. Non meravigliatevi se io, Mario, affetto a suo tempo da patologia psichiatrica, sono stato in manicomio. In Italia il 2% dei cittadini soffre di disturbi psichici e se si dividesse la popolazione per classi di censo e di istruzione, i più poveri e i più ignoranti sarebbero di gran lunga più matti degli altri. Vi racconto di me. La mia era una famiglia di mezzadri e dopo la quinta elementare ho cominciato in famiglia a curarmi delle bestie. Poi mi sono andata a lavorare nei campi a giornata intera. Ero giovane e stavo bene sia fisicamente che mentalmente, fin tanto che una storia d'amore appassionato, seguita da una tragedia, mi ridusse alla follia. Dappertutto vedevo lei. Ci parlavo, mi arrabbiavo con chi mi disturbava dalle mie lunghe e appassionate conversazioni. Mangiavo pochissimo, non lavoravo più. Quando mio padre decise, insieme al medico, di mandarmi in manicomio, la mia presenza in famiglia era assolutamente insostenibile. E lei, il mio amore, con cui avevo sempre lunghe conversazioni, era morta da anni. Arrivai al Pionta, il manicomio di Arezzo. Era una mattina tetra di novembre, ma non mi fece tanto male il cancello di ferro che cigolando si chiuse alle mie spalle. Una giovane e bella infermiera prese in consegna me e le mie poche cose che a casa mi avevano messo nel fagotto di stoffa e mi portò nella camerata, dicendomi che l'indomani mi avrebbe visitato un medico specialista del reparto che mi avrebbe ordinato pillole e iniezioni intramuscolari e che, se avessi ostacolato le cure, mi avrebbero messo la camicia di forza e poi mi avrebbero racchiuso in una cella di isolamento. Allora non lo sapevo, ma oggi l'ho provata sulla mia pelle. E la camicia di forza è una cosa bruttissima. Ti mettono addosso una camicia robusta, adatta alla tua stazza, ma le maniche sono due volte la lunghezza dei tuoi bracci. Quando ci sei dentro, prendono le maniche, le incrociano e le legano dietro di te sulla tua schiena. Non ti puoi proprio muovere, sei inoffensivo, ma invece di essere curato, sei prigioniero. Le mie relazioni con i medici e gli infermieri peggioravano di giorno in giorno a causa della mia malattia e mi rendevo conto che nel manicomio, invece di curarmi, mi punivano per quelle cose che un matto fa perché è matto, non perché è cattivo. Mi punivano per le cose che un matto fa perché è matto. Se paragoniamo il manicomio a un pozzo profondo dove più sei malato e ti ribelli e più vai in basso, io arrivai in fondo al pozzo, nel reparto che al Pionta chiamavano la stanza rosa, perché quel reparto aveva pareti e soffitto colorati in rosa. Quello per i decenti era il peggior reparto di tutto l'ospedale e una volta che ti ci avevano assegnato era difficile uscirne vivo. Lì tutti eravamo in continua sedazione. Nessuno parlava, ma tutti ci lamentavamo con mugolii indefiniti e monotoni. Come vi dicevo, anch'io ci sono stato per alcuni mesi in quel reparto. Non sapevo che quello era l'anticamera della morte. L'ho saputo in seguito, quando è avvenuto quello che sto per raccontarvi. Nei manicomi, con la legge numero 36 del 1904, il direttore della struttura decideva dell'ammissione, della qualità della condotta all'interno del manicomio e della dismissione dei pazienti guariti. Nessuno poteva interferire sul suo giudizio. In quel periodo invece a cui mi riferisco io, 1978 circa, il Parlamento italiano approvò la cosiddetta legge Basaglia. Era una legge che chiudeva i manicomi e assegnava i malati psichiatrici al Servizio di Igiene Mentale Nazionale. Tutto questo ovviamente non avvenne in un giorno, ma quel soffio di libertà e di rispetto di tutte le persone che era nella nuova legge, a Arezzo si estese velocemente perché i medici del nosocomio erano persone illuminate, tra virgolette, e molto sensibili ai diritti dei cittadini, anche se cittadini malati. Allora, in quel periodo, era direttore del manicomio Agostino Pirella, un convinto sostenitore dei diritti dei malati. Organizzò nell'istituto incontri cadenzati, cui partecipavano tutti i pazienti, gli infermieri e i medici, tutti con diritto a prendere la parola e ad avere risposte. Il direttore convocò anche i malati del già detto reparto rosa, perché per innovare, diceva lui, bisogna partire dagli ultimi, e erano quelli del reparto rosa. L'effetto positivo di dare la parola e prendere la parola esteso a tutti fu dirompente. Non fu un miracolo, ma diverse persone, tra cui anch'io, dopo un po' di tempo da questo nuovo atteggiamento di relazione tra scienza e denunce di atteggiamenti oppressivi degli internati, uscimmo guariti da quello che prima della legge Basaglia era un lager assolutista utilizzato anche a scopi politici e di faide familiari. Da allora mi sono interessato al mondo della psichiatria e potrei raccontare di Gorizia, di Torino, di altri importanti avvenimenti successi in questo campo. Ma il mio tempo per oggi è finito. Perciò vi saluto e alla prossima. Salve e buona giornata.